Buongiorno Irene e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per parlare del collettivo Parsec. Partiamo un attimo dal principio, per chi non vi conoscesse. Che cos'è Parsec? Parsec è un collettivo artistico che è stato fondato, diciamo, ufficialmente in settembre, però è già un annetto che lavoriamo al progetto. Siamo 11 ragazze, abbiamo tutte formazioni diverse, ma da sempre lavoriamo tutte in ambito artistico-culturale. Io sono un'artista, abbiamo altre artiste come Matteo, Tilde e Francesca all'interno del collettivo, e curatrici, antropologhe, mediatrici culturali, abbiamo una musicista, Arianna, collezionista, ragazze che studiano management per le arti culturali come Judith e Giulia, grafiche, insomma siamo 11 con tutte formazioni diverse e ci siamo ritrovate, diciamo, casualmente a Bologna all'inizio dell'anno scorso, e abbiamo deciso di metterci insieme, di creare questo collettivo e poi di prendere un luogo in cui iniziare questo progetto. È un progetto che ha da una parte una forte componente laboratoriale, infatti il nostro spazio, che è in via del Porto 48C/D qui a Bologna, è, diciamo, diviso su due vetrine. Una è la parte più laboratoriale, in cui noi lavoriamo insieme e mettiamo anche a disposizione strumentazione per chi ha bisogno, quindi abbiamo camera oscura, stampanti 3D e quant'altro, mentre l'altra parte dello spazio, l'altra vetrina, quella dove realizziamo i progetti più espositivi, è appunto la parte espositiva in cui sia vogliamo organizzare mostre ma anche incontri culturali più ampi, quindi presentazioni di libri, talk, workshops e cose di questo genere. Tra i vari progetti che state portando avanti, quello che mi ha colpito maggiormente è stato Close. Di che cosa si tratta? Sì, esatto, Close, come vi dicevo, è in una parte della vetrina, ma non si vede subito, è, diciamo, un progetto un po' nascosto. Si chiama Close con le parentesi, perché infatti significa sia closer che closed, perché è nato dopo la prima chiusura che c'è stata, penso, sì, il 25 ottobre, perché noi abbiamo inaugurato lo spazio il 22 e abbiamo dovuto chiudere il 25, quindi siamo state ufficialmente aperte 3 giorni. Il 25 ottobre, quando abbiamo dovuto chiudere le serrande, ci siamo trovati davanti lo spazio effettivamente chiuso. Volevamo comunque provare a portare avanti dei progetti espositivi nonostante avessimo lo spazio chiuso. Questo perché, diciamo, che crediamo nella fruizione online dei contenuti culturali, come sta succedendo adesso per forza di cose, e quindi volevamo creare una sezione di contenuti online sul nostro sito e sui nostri social, però avevamo anche la necessità fisica di andare a installare un lavoro effettivo nello spazio, quindi volevamo che lo spazio vivesse comunque, e quindi vedendo le serrande chiuse e la buchetta della posta che c'è solitamente sulle serrande dei locali, ci è venuta l'idea di creare comunque una mostra all'interno dello spazio chiuso, fruibile dalla buchetta della posta. E così è iniziato il progetto. Abbiamo iniziato l'8 novembre con una mostra di Iside Caicagnile, che è rimasta quasi un mese in mostra, e adesso abbiamo invece un'altra ragazza con un video che si chiama Gloria Dardari, e rimarrà visibile sicuramente fino a fine gennaio. E la particolarità di Close, oltre a, diciamo, combinare questa presenza fisica del lavoro all'interno dello spazio chiuso, fruibile dalla strada, diciamo, è anche appunto il combinare la mostra con i contenuti online, perché ovviamente non tutti possono muoversi liberamente e passare davanti allo spazio, quindi abbiamo anche contenuti online visibili sul nostro sito. La particolarità di questi contenuti è che non è semplicemente un testo critico del lavoro o una scheda tecnica, ma abbiamo cercato di dare diversi spunti di riflessione che partono dal lavoro installato, che vanno a parlare di tematiche anche molto ampie, comunque molto legate alla nostra situazione, diciamo, contemporanea. Quindi sono, diciamo, delle piccole pillole che vanno ad aprire tanti discorsi, e si possono vedere sia sul sito che davanti alla serranda, inquadrando un codice QR che abbiamo messo di fianco alla buchetta, così chi guarda la mostra può e direttamente accedere a questi contenuti. Perfetto Irene, io ti ringrazio veramente per averci raccontato in maniera così precisa e puntuale il vostro progetto artistico Parsec, e per chi avesse voglia di sbirciare dalla vostra buchetta, insomma, Parsec si trova in via del Porto numero, ricordiamolo, 48 CD. Perfetto, grazie ancora. Grazie a voi, ciao, buona giornata.